il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il Parlamento europeo ha votato di recente un testo di compromesso sulla futura politica in materia di biocarburanti, un compromesso accettato dagli eurodeputati, dal Consiglio e dalla Commissione europea, che include una proposta sulla quantità di biocarburanti derivati da colture agricole da poter utilizzare per rispondere all'obiettivo dell'Unione europea in fatto di carburanti rinnovabili per i trasporti. Esso fissa un massimale del 7% nel caso dei carburanti per i trasporti ottenuti da colture agricole e stabilisce obiettivi dello 0,5% per i biocarburanti avanzati a livello europeo nazionale, che però non sono obbligatori. Ecco, che cosa significa tutto questo? Di cosa stiamo parlando? Lo vorremmo approfondire con David Chiaramonti, professore di tecnologie di conversione energetica delle biomasse dell'Università di Firenze. Benvenuto, professore. Ben, buongiorno. Le domande sono tante, intanto vorremmo capire di cosa stiamo parlando quando si citano le biomasse e i biocarburanti, ma anche chi li produce, cioè da dove arrivano, chi li utilizza, chi è l'utente finale di questi prodotti e quali sono le prospettive sia a livello dell'inquinamento che di impoverimento delle risorse agricole, per esempio a uso alimentare. Insomma, sono il nostro futuro questi prodotti derivanti dalle biomasse? Questo è un po' il tema di oggi. Beh, sì, certamente è un argomento molto dibattuto. In realtà noi utilizziamo i biocarburanti già da tantissimo tempo. Molto probabilmente lei o qualcuno dei suoi ascoltatori sta guidando un'automobile in cui in quota parte 5-7% probabilmente sta già utilizzando del biodiesel. All'estero, ad esempio negli Stati Uniti, questa cosa viene chiaramente segnalata a livello della pompa. Nel nostro paese è un po' meno evidente per l'utilizzatore, però diciamo che sono già ampiamente diffusi. Negli ultimi anni poi c'è stato un lungo dibattito, molto lungo oggettivamente nel corso degli anni, sull'utilizzo di materie prime potenzialmente destinate all'alimentazione, faccio un esempio, l'olio di girasole, di colza o l'olio di soia, per fare carburanti anziché per essere destinato a scopo alimentare. Il pronunciamento, diciamo, delle istituzioni europee a cui lei si riferiva di fatto è un po' la sintesi di alcuni anni di elaborazione, di discussione, di confronto anche fra gli Stati membri, e quindi pone un limite al 7% a questa tipologia di biocombustibili, devo dire lasciando molto molto timido 0,5% ai carburanti cosiddetti di tipo avanzato o comunque altamente sostenibili. L'argomento tecnicamente è molto ampio e comprende tante classi di combustibili alternativi di origine biologica. Ecco, l'ambizione a livello, diciamo, dei carburanti avanzati dell'Unione Europea è, devo dire, piuttosto modesta e non è neanche vincolante questo 0,5%. Ecco, per capire esattamente di cosa stiamo parlando, io so che i produttori nazionali avevano l'obbligo di fornire una quota minima di biocarburanti in Italia ogni anno, sì, del 5%. Questo 7%, cioè che cosa sono questi? Dunque, noi abbiamo questo... un obiettivo del 10% complessivo, quindi okay, dobbiamo raggiungere, questo rimane valido anche da qui al 2020, stiamo parlando, peraltro rimane valido anche nello scenario che lei ha descritto. Di questo 10%, il 7% sarà il limite massimo dato alla quota parte di biocombustibili alternativi provenienti da materie prime potenzialmente utilizzabili nel settore alimentare, nel settore food, ecco. Mentre la parte rimanente dovrà derivare da materie prime, faccio un esempio facilmente comprensibile, gli oli fritti domestici sono materie prime non destinabili più all'utilizzo alimentare, che però non rientrano in questo conteggio, oppure materie prime di carattere completamente diverso, tipo lignocellulosiche, cioè praticamente, per farla molto semplice, si tratta di produrre un combustibile liquido per l'automobile derivandolo da una canna o da un pezzo di legno. Ecco, questi sono carburanti di tipo avanzato per i quali viene indicato uno 0,5%. Ecco, questi carburanti sono utilizzati da soli, quindi inseriti nei serbatoi, oppure sono all'interno dei prodotti benzina, diesel che utilizziamo? Sono utilizzati solo in determinati settori, quindi magari per macchinari particolari? Sì. O... diciamo che il discorso andrebbe differenziato a seconda della tipologia di carburanti. Se parliamo di biodiesel e bioetanolo, che siano tradizionali, cioè fatti da colture oleaginose convenzionali o da colture zuccherine amidacee convenzionali, vengono mescolate in una percentuale rispetto al combustibile tradizionale. Ad esempio nel biodiesel, cioè nel gasolio, probabilmente fino al 7% di biodiesel e lo stesso dei punti percentuali di etanolo. Poi nella classe dei carburanti avanzati vi sono delle tecnologie che consentono di produrre praticamente degli idrocarburi, cioè combustibili che sono assolutamente comparabili ai combustibili fossili, e questi si possono mescolare in percentuale più alta. Però diciamo che l'utilizzatore è trasparente rispetto a questo tipo di utilizzo, cioè comunque all'utilizzatore viene fornito un combustibile che è compatibile con il sistema esistente, a differenza di altre aree del mondo, ad esempio Sud America. Ecco, ma è possibile pensare ad un combustibile il 100% prodotto da biomassa? Cioè, personalmente ho visto persone versare nel serbatoio olio di colza comprato al supermercato. Lì purtroppo per un periodo noi abbiamo lavorato tanto su quell'argomento lì. Vede, il problema non è ammesso che sia fiscalmente e legalmente possibile, certo, fare un'operazione del genere, cosa che non è, ma in realtà i problemi emergono nell'utilizzo di lungo periodo. Non è così difficile far girare un motore per qualche minuto anche con un combustibile fuori specifica. I problemi lei li ha nell'uso quotidiano e, per esempio, nel caso in cui che lei citava, ricordo benissimo una test di 4 ruote che mostrò come, senza fare modifiche sul motore, e dopo 6 o 7 mila chilometri un appunto grippò il motore, ma certo, tecnicamente è cosa nota, cioè per fare quel tipo di impiego bisogna modificare il motore. Quello di cui parliamo noi invece è di alimentare un sistema di distribuzione dei carburanti e un sistema di utilizzo, cioè automobili e motori, con globalmente un combustibile che è compatibile con il sistema di utilizzo, cioè lei non si deve accorgere che usa un combustibile di origine biologica. Si può usare al 100%. Allora, il biodiesel e il bioetanolo richiedono veicoli dedicati per essere utilizzati al 100%. In Brasile esistono quelli che si chiamano flex fuel, cioè delle macchine che, grazie a un peraltro brevetto italiano della Magneti Marelli, riescono a rilevare quanto etanolo rispetto alla benzina c'è e ad adattare il funzionamento del motore per queste condizioni. In Italia ci sono solo delle macchine dimostrative, ma non è diffusa questa cosa. I carburanti avanzati invece possono essere anche, soprattutto in trasporto stradale, arrivare al 100%, tecnicamente parlando. E ci dobbiamo fermare, tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. Now I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you, that'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah, I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it, till they have a case, gonna check on your mind and it's nothing but me on it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it, promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick, cause this here a fatal attraction, so I take it all or I don't want it. You used to be thirsty for me, right. But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace. So over with now. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di biomasse, anzi in particolare di biocarburanti prodotti appunto dalle biomasse. Ne stiamo parlando con David Chiaramonti, professore di tecnologie di conversione energetica delle biomasse all'Università di Firenze. Abbiamo fatto un po' il quadro della questione dei biocarburanti, non abbiamo toccato forse un tema credo che sia importante, il motivo per cui ci si rivolge alle biomasse. Perché sta finendo il petrolio, o perché economicamente sono più convenienti, o per quali motivi, quali vantaggi ci sono? Magari a livello di inquinamento, inquinano di meno? Dunque, distinguiamo fra le varie regioni del mondo, perché le motivazioni, che poi sono tre essenzialmente, sono presenti in tutte le aree ovviamente del mondo, ma hanno un peso diverso. In Europa noi tendiamo a mettere l'accento sul risparmio delle emissioni di gas serra, cioè cerchiamo di proteggere l'ambiente dai cambiamenti climatici andando ad adottare delle misure che limitino le emissioni di gas serra in atmosfera, e i biocarburanti sono uno di questi, se ovviamente carburanti sostenibili fatti nel modo corretto eccetera. Ora non c'è tempo di entrare nel dettaglio di questo. In realtà i biocombustibili hanno anche altri impatti molto importanti, non di carattere ambientale. Un impatto sulla sicurezza energetica. Noi in Europa dipendiamo per la quasi totalità dalle importazioni nel settore dei combustibili per trasporti. Produrre in modo domestico, cioè locale, un combustibile vuol dire comunque per quella quota parte ridurre la dipendenza energetica dalle importazioni da altri paesi. E questo è un aspetto ovviamente importante. L'altro aspetto è l'aspetto socio-economico, perché soprattutto se io mi approvvigiono da una filiera nazionale, locale di biomassa, in questo modo attivo anche tutta una serie di benefici socio-economici legati alla creazione di posti di lavoro, all'indotto che a questi è collegato, che sono assolutamente nazionali. Non a caso la legge americana, a differenza di quella europea, e questo è proprio un tipico approccio statunitense, si chiama Energy Independence and Security Act, certo. Indipendenza e sicurezza energetica. In Europa noi invece mettiamo più l'accento, ripeto, sulla fonte rinnovabile, e quindi sul fatto di ridurre le emissioni di gas serra nei trasporti, nell'energia, in tutti i vari campi. Ecco, tutto questo poi nasce però un problema che è più quasi ambientale ma anche economico, relativo all'agricoltura, cioè il fatto di minori, una diffusione di colture di questo tipo non per l'uso alimentare in territori come quelli italiani, che sono anche particolari, dove non abbiamo tutto questo territorio, o sulla questione dei prezzi, magari se i beni vanno utilizzati per determinati, per questi tipi di usi, magari vengono a mancare per l'uso, per esempio per l'alimentazione animale, quindi un aumento dei costi. Insomma, ho sentito varie problematiche, sì, legate a questo tema. Sì, sì, è quello che poi si riflette nella direttiva europea, diciamo nella posizione europea che citava prima. Purtroppo devo fare una premessa, è un po' un tipico dell'era moderna cercare di semplificare i problemi, mentre questi sono problemi molto complessi che caso a caso richiedono valutazioni. Noi, se prendiamo il caso italiano, abbiamo perso una grande quota, una rilevante parte della superficie agricola utilizzata per vari motivi, non convenienza della coltivazione agricole, urbanizzazione e quindi cementificazione, tutta una serie. Quindi abbiamo un problema di sviluppare la nostra agricoltura e tenere, diciamo, l'agricoltura viva, efficace, no? Certo. E se poi andiamo, quindi le situazioni possono essere molto diverse. Se poi andiamo a vedere i processi, ci sono ad esempio la filiera della digestione anaerobica, quella del biogas e del biometano, o in talune aree, soprattutto le aree marginali, la filiera di biocombustibili da biomasse solide, lignocellulose, che queste sono virtuose, nel senso che consentono ad esempio di migliorare il ciclo culturale e le rotazioni sui terreni grazie alla presenza di digestori anaerobici che consentono questo benefico effetto, oppure consentono di andare a coltivare in aree dove non si ha una convenienza economica a installare colture convenzionali, tipo non so, il girasolo o la folta, certo. Consentono invece di installare delle colture lignocellulosiche. Però ripeto, c'è un po', e qui devo dire il problema del dibattito che è avvenuto in Europa, c'è stata un'eccessiva semplificazione, contrapposizione tra food e no food, quando si può produrre energia e food, e si possono studiare le forme migliori, ma chiaramente non c'è una soluzione magica, bisogna mettersi ad analizzare il territorio, le specificità, e per ogni area trovare le soluzioni più opportune. Ecco, non è un problema banale. Assolutamente no. Biomasse non significa solo biocarburanti, significa anche altri prodotti. Per esempio i sacchetti biodegradabili che utilizziamo normalmente sono prodotti da biomasse molto spesso. Sì, molto velocemente. Questa in realtà è probabilmente la frontiera futura, l'integrazione della produzione di biocombustibili e di bioprodotti. Noi utilizziamo tanti prodotti chimici nella vita di tutti i giorni, questi possono essere come biocombustibili prodotti da via da matrici organiche, quindi da risorse biologiche, dalle biomasse, e molto probabilmente lo stesso impianto che produce i biocombustibili e i bioprodotti ha una quota parte della sua produzione che ricade nell'altra, quindi in realtà probabilmente produrremo contemporaneamente questi due in molti casi. Ci dobbiamo fermare qui e ringrazio Davide Chiaramonti, appunto, dell'Università di Firenze per la sua disponibilità. E con il quadrifoglio ritorniamo la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.